storie de noaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Cari amici, buonasera. Buonasera da parte di Gesi e di Antonio. Oh Antonio, caro, siamo arrivati all'ultima trasmissione, al rush finale, diciamo. Ecco, della stagione, diciamo. Sì. E, a Dio piacendo, ci ritroveremo. Ma noi lo auspichiamo. Ecco, appunto. Intanto auguriamo. Beh, glielo auguriamo in ultimo, ma gli auguri fanno sempre bene. Certamente. Una buona estate a chi è già in vacanza e a chi dovrà andare, anche a loro auguriamo un'estate un pochino meno calda, se possibile. E serena, possibilmente. E serena. Diamo quindi un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Vi ricordiamo il nostro indirizzo internet, bluradioveneto.it, il numero di telefono per sms, consigli, proposte e suggerimenti, che è il 346 26 20 033. Ricordiamo che è anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Non dimentichiamo naturalmente un saluto al nostro regista Eddie. Eh sì, sempre il nostro angelo custode. Bene, allora stasera abbiamo un ospite illustre. Circa un mese fa, esattamente vi dico il 27 maggio, abbiamo avuto come ospite il dottor Italo Facchinello, che stasera è ancora qui con noi. Buonasera, dottore. Buonasera a voi. Allora, bentornato. Grazie che mi avete di nuovo invitato, io vengo volentieri. Benissimo, e allora chissà che ci siano altre volte. Prima ascoltiamo una canzone, poi le diamo il microfono e lei... Mi arrangio. Ecco, bravo. Va bene. Allora, ascoltiamoci la prima canzone. Beh, oggi è il primo luglio e di conseguenza cosa si poteva ascoltare? Se non Riccardo del luglio. Turco, naturalmente, con ecco. Luglio. Va bene, luglio allora. Luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Fatto una promessa, l'amore porterai, ai, ai, ai, ai, anche tu in riva al mare, tempo fa, amore, amore, mi dicevi luglio ci porterà fortuna, poi non ti ho vista più, vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio si veste di novembre, se non arrivi tu, ia, ia, ia, ia. Luglio sarebbe un grosso sbaglio, non rivedersi più, ia, ia, ia, ia. Ma perché in riva al mare non ci sei? Amore, amore, ma perché non torni? È luglio da tre giorni e ancora non sei qui. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio, stamani al mio risveglio non ci speravo più. Ci sei tu, ia, ia, ia, ia. Ci sei tu, in riva al mare, solo tu, amore, amore. E mi corri incontro, ti scusi del ritardo, ma non mi importa più. Luglio ha ritrovato il sole, non ho più freddo al cuore, perché tu sei con me. Do sei con me. Eccoci di nuovo in studio e adesso diamo la parola al nostro dottor Italo Facchinello. Oh, caro dottore, di che cosa ci parla stasera? Stasera parlo del mio paese d'origine. Che è Loria, vero? Che è Loria nell'Alto Trevigiano. Sì. Però non di Loria come adesso, di Loria come era negli anni 30 e i primi 40. Benissimo, diciamo. Allora a lei la parola e il microfono è tutto suo. Al mio paese ho dedicato tanti versi, non li chiamo nemmeno poesie perché è una parola troppo impegnativa. Questi qui sono tratti da un libretto dell'80 che si chiama Campi Lontani, che ha un sottotitolo Versi semplici, quasi un racconto. Da questo ho tratto le mie quattro stagioni, se si può dire così. Sì. Ma allora Silicet, erano stagioni. Silicet, ecco. Che erano scandite una volta. Erano scandite. La volta sì, adesso no. Ecco, Loria in quel tempo lì era uno dei paesi più poveri della provincia, forse il più povero, fino a pochi decenni fa. E la mia famiglia era tra le più povere del paese. Quindi le stagioni avevano un significato anche sul modo di vivere, e l'inverno era la stagione maledetta in qualche maniera, per il freddo. Per il freddo E quindi si pativa il freddo, bisognava andare nelle stalle altrui oppure a letto oppure prendere il freddo, tanto è vero che si aveva tutti i geloni sulle mani, sui piedi, sulle orecchie. Quindi l'inverno era desiderio di che finisse presto, desiderio di primavera. Infatti i primi versi che leggo sono sono inverno come desiderio. Ah, lei comincia dall'inverno. Sì, comincio dall'inverno. Va bene. Desiderio di radicarsi nella terra viva a risucchiare linfa e canto, d'andare variopinto in odorosi petali e sementi che il vento porti nello spazio chiaro. La grande nemica dell'inverno poi era la neve, perché dovete sapere che con la neve non ci si muove. E mio papà, che faceva il sensale, doveva andare in giro in bicicletta tutto il giorno a vedere se i contadini avevano un vitello da vendere per fare il contratto. Lui prendeva la provvigione. Sensale, cos'è? Mediatore. Sensale, mediatore. Mediatore. Sì. E la neve era proprio una sciagura. Quindi ho diversi versi contro la neve. Mamma mia. Ve li leggo. Sì. Sono brevi. Nevica sulle case ferme come coscienze di pietra, su voli disperati, su timide luci, su alberi rassegnati, il fiume che scioglie la neve scorre indifferente. Questa è la neve 1. Neve 2. Una madre sulla porta di casa piangeva a vederti, neve che trami l'aria di silenzi, che trepidi passeri all'aria riporti, neve che voli bianca e sfanghi. Neve 3. Neve 3 illustra una piccola scenetta. C'è una vecchia che sta disfacendo un mobile col martello per farne legna da ardere. Addirittura una volta facevano anche questo le donne, vero? Sì. Nevica e batte un martello sotto le volte del porticato. Una vecchia sul lastrico presso un pilastro schioda caldi telai. Tremano i vetri, rabbrividisce l'aria. La vecchia in grembo il cumulo di lacerazioni scompare oltre la porta, sgranata d'anni. Poi c'è un'altra immagine di mia mamma che andava a raccogliere legna lungo le siepi prima dell'alba per far bollire il latte a me. I tapari. Lungo le siepi altrui d'inverno la mamma andava per legni prima dell'alba. Ridevano al mattino di fiamma il focolare e il suo volto. Ma pensi un po'. Questo è l'inverno finito. Adesso comincia la primavera. Aspetta, aspetti che parliamo un po' dell'inverno. Allora, proviamo a immaginare così, con la vita di adesso, la vita di allora, che le donne si alzavano alle 4 di mattina con quel freddo che era. Con le prime luci dell'alba. Ecco, e andavano a far legna. Sì, sì. Quanti di noi, delle nostre donne, anche noi stessi, insomma, quanti andremo a dicembre, gennaio, a far legna? Le legne erano un problema enorme. C'era uno dei miei compiti, uno dei miei compiti fino a 18-20 anni era quello di approvvigionare di legna la casa. Mm. Quindi andavo per siepi, andavo su per gli alberi a raccogliere legna secca. Anche perché non c'era l'isolamento alle finestre. Non c'era l'isolamento alle finestre. Di quelle spese. Sì. Trovare legna era uno dei miei lavori. E legna ed erba per i conigli. Sì, erba. Quindi erano i miei lavori, nonostante che studiassi, ero al liceo. Sì, sì, sì, beh, però andavo a legna e a erba fuori per le siepi. Ma pensi una donna anche che, insomma, sì, che è più fragile, che più... Eppure alla mattina alle 4 andava a far legna. Ah, sì, sì. E alla sera si fermava a cucire col lume a petrolio. Sì. Esatto. Perché cuciva per noi e cuciva anche per gli altri. Per un franco. Fino a mezzanotte anche. La prima ad alzarsi è l'ultima ad andare a letto. Mia mamma era una vita di sacrifici straordinari. Mia mamma, dico che deve essere in paradiso per forza, se non ci va lei non so chi ci vada. Sì, perché... Comunque mia mamma aveva sempre la speranza in sé, cioè non si abbatteva mai. Difatti la poesia che leggo adesso è in qualche maniera l'annuncio della primavera. Bene. Appena il giro degli astri aveva toccato il fondo e la stagione sorgeva, partivi incontro alla primavera, le mani gonfie di gelo, in volto la speranza, splendida e dolce contadina della Terra Santa sotto il Monte Grappa. Terra Santa sotto il Monte Grappa. Terra Santa. Terra Santa perché c'è Pio Decimo, il Tintoresi. Sì, è vero. Qui siamo già in primavera, quindi la poesiola intitolata Aprile e l'altra è Correre. Allora, d'aprile nei campi si passa la linfa con gli occhi e dentro le stalle i bovini frangono greme con dita di frescura. Salgono dai germi al brivido primo della terra verdi canti di steli e da sotto il crostame dei gelsi intasato di geli serici brocchi. D'aprile mi torna il pensiero nei campi dove germoglia il sorriso. Bella. Questo è aprile. Il correre poi, perché d'aprile si correva, si cavava le scarpe e si correva scalzi. Una volta sì. Correre scalzo nei campi per morbidi prati e cavini, balzare nei rossi trifogli, inseguire tra fronde richiami, attendere sulla spianata il poledro sfidante, prorompere al fresco serale ai gridi dei bassi rondoni, l'umore dei campi al sole m'entrava con voglia di danza. E questo io ricordo una frase che si diceva un tempo: marzo ogni matto vale scalzo. Ed aprile ci va anche il civile. Ecco, esattamente. Quindi, ed era un toccasano l'arrivo della primavera, sì, perché così si risparmiavano, le scarpe e scarpe. Ed era una liberazione. C'era un pericolo delle scappe aee, si chiamava, cioè di battere col pollice del piede sui sassi. Ah, sì, oppure degli spini che si prendeva. Esatto. Ma io mi ricordo delle sere d'aprile stupende. Adesso non ne trovi una neanche a cercarla col lanternino. Adesso una bella serata di aprile. C'era un senso di sobrietà che ormai ho l'impressione abbiamo perso e che dobbiamo e dovremmo, penso, non si buttava niente. Mia nonna, che non era povera come noi, perché mia nonna apparteneva a una famiglia di commercianti, quindi erano abbastanza benestanti, però guai che qualcuno buttasse via qualcosa. Esatto, un avanzo di mangiare, questo spirito si metteva di, via per il dopo, di sobrietà. Adesso troppo, i pranzi sono non c'era troppo, consumismo troppo no, assolutamente. E buttano via un sacco di roba, perché uno quando mangia. Il consumismo l'ha indotto l'industria, evidentemente. Sì, ma occorre rinsavire alla svelta. Allora adesso abbiamo visto, dopo la primavera siamo già in estate c'è il calandrone, c'è lo spigolare, perché in estate si andava a spigolare, una delle attività preeminenti di chi non aveva terra. Spigolare significa andare a prendere le spighe che i contadini lasciavano per terra dopo che avevano mietuto. Ho capito. E allora i poveri andavano a raccogliere queste spighe, che poche, si facevano 2-3 branche di spighe e si mettevano nei balconi e poi si andava a mietterle. A fine anno, se si era fortunati, si faceva 50-60 kg di frumento. Beh, intanto si andando avanti, a spigolare prima dall'alba. Ma c'era concorrenza, bisognava alzarsi prestissimo. Un po' come dopo la vendemmia. Gli spigolatori. Gli spigolatori erano una professione dei poveri. La spigolatrice di Sapri, mi viene in mente. Sì, il calandrone. Il calandrone è invece l'uccello che canta sospeso nell'aria. Come quando in estate le messi bruciano fino all'estremo orizzonte e il sole addormenta la terra e le case e le fibre profonde, canta il calandrone. Arriva filtrato dal grave respiro dei campi e dal torpido tono dei sensi un richiamo che invita a posare nell'erba, un suono che danza nel giallo vapore, l'eco d'una voce ascoltata di sera nel dormiveglia. E questa è degli Spigolatori. Accanto a mia madre nell'ombra, per strade infossate andavamo, per lunghi cavini andavamo, e l'alba furtiva scopriva covoni in fila ai filari. Frenesia di spighe, di stormi, di gridi del sole, grondare e tornare a fardellati, dolce bere e tergersi alla fontana, profumo di pane. Ecco. Bene, adesso ci fermiamo un momentino, ci ascoltiamo la seconda canzone, che è cantata da Adamo ed è intitolata Accanto a te l'estate. Accanto a te l'estate scorrerà come un sospiro, come una carezza. Accanto a te l'estate canterà, come in un sogno, come un dolce poema. Mi sento un marinaio quando i tuoi capelli ondeggiano sul mare come alghe bionde, e mi sento gran mago quando con un bacio accendo un sole al cielo della tenerezza. Accanto a te l'estate ballerà nel vento con le bianche vele sull'acqua d'argento. Accanto a te l'estate vestirà di festa e ci regalerà i gioielli del sole. Accanto a te l'estate volerà leggera e ci sussurrerà mille parole d'amore. Sarà la nostra estate, per noi due il mondo si dondolerà ad un raggio di luna. Ed ogni notte, amore, io ti cullerò e t'addormenterai in un manto di stelle. Ah. Eccoci di nuovo in studio e a lei la parola. Leggo Riposo. Bene. Il riposo, che è uno dei conforti dell'estate, dopo aver lavorato, dopo aver sudato, eccetera. Dopo aver mangiato. Fermarsi anche sotto, fermarsi all'ombra o in mezzo a un sorgo turco, è come in un boschetto. Era una gioia, era un sollievo enorme. Frescura, esatto. Vagando tra siepi d'acace, stelo su stelo raccolto e legato alla corda un fascio di legna. E sera. Seduto sul ciglio d'un fosso ascolto il respiro dei campi, dei gelsi che stagliano in cielo tronchi d'ombre scabrose. L'acqua sbarrata alla diga lenta si intasa tra l'erbe, percorsa da tremiti rari e da gocce d'ultimo sole. I voli ristanno alle prossime fronde. Bella. Dopo c'è un pomeriggio d'estate, è sempre una sosta, perché sì? I pomeriggi d'estate hanno un fascino particolare. Sì, vero. Perché nel pomeriggio d'estate, quando è tanto caldo, i contadini non vanno a lavorare. No, esatto. E c'è un silenzio enorme, c'è questo caldo silenzioso. Ma ci vanno verso le tre. Dormono tutti, scottano il sole, i muri e i balconi chiusi. La strada è deserta, soltanto cicale nel verde assopito friniscono. Ignazio, che è un bambino, è seduto sul ciglio del fosso, un sacco da parte e una corda. Raccoglie dei sassi e li getta su folti cespugli di rovi ed ortiche. Il rivolo intanto ha voce di pianto. Sempre d'estate dormono il sole a picco, i campi e le spighe e i cavalli in piedi. Silenzio di vento. Verde azzurro indistinto, lento il cuore all'ombra d'un muro. Tarda sera d'estate. L'ultimo raggio di sole ha spento le grida giocose dei bimbi. I voli sulle acacie, un carro si ferma, la fontana racconta. A mezz'aria un brusio di grilli e ranuncole verdi come la leve foschia che imbianca l'erbe di tenera luna. Silenziosi contadini fumano, seduti per terra, ombre. Nella luce della finestra la mamma prega, vengono caute stelle. Bella questa frase, la fontana racconta. Fontana racconta. È bella, molto bella immagine. Perché le donne andavano alla fontana una volta per prendere l'acqua, ma anche per contarsela. Sì, perché beh, stavano certo. lì, un momento stavano di, lì di, a cerchio attorno alla fontana, esatto. E passavano il tempo. Ma anche andavano, era un luogo d'incontro la fontana, incontro, certo, esatto. Ma anche il fosso quando andavano a risciacquare. Anche il fosso quando andavano a risciacquare. Ma quello era anche nelle nostre campagne. Che... Comunque per l'estate io avrei finito, dopo se volete comincio con l'autunno. Ah no, va pure avanti con l'autunno. Splendida stagione l'autunno. Comincio con la raccolta del Gran Turco. Questa sera d'autunno mi accende un ricordo che odora di muffa e foglie secche. Davanti al porticato in semicerchio scartocciano le donne al lume di carburo, mentre del carro un contadino agguanta fasci di Gran Turco con la forca. L'ombra densa dei campi è un drappo nero spaccato dal lume. Nel silenzio un canto sale, affonda la notte, addolcisce il canto, l'aria. Vela anche il lume e un bimbo nel fogliame presso la madre s'addormenta. Devo fare una spiegazione su questo. Sì. Quando si faceva la raccolta delle pannocchie, verso settembre, fine di settembre, primi di ottobre, ottobre esatto, di, le face, la raccolta veniva fatta di sera, si scartocciava, si dice, cioè si cavava, le foglie dalle pannocchie, mi ricordo. E andava tutta la gente della contrada, andava dal contadino più grosso, più importante, a scartocciare. E si mettevano seduti in semicerchio. E andavano anche i bambini insieme con le mamme. E i bambini avevano il compito, un certo periodo dopo la guerra, per esempio, di tenere da parte le foglie più tenere delle pannocchie per fare le sporte. Con quelle facevano le sporte, sì. Le ho fatte anch'io. Sì, mi ricordo. Cioè si facevano dei cordoli e si facevano sporte. E con quelle secche invece venivano fatti i paglierici, ecco, cioè gli stramassi. Stramassi, esatto. E si davano anche alle bestie, poi nei periodi di magra si dava da mangiare anche quella roba lì, esatto. Insieme con un po' di fieno. Sì, però io gli scartossi nel letto me ne ricordo, mamma mia. Sì. E anche mi ricordo appunto che sì, era un momento di aggregazione per i contadini trovarsi a scartossare. Sempre di autunno, il Gran Turco ancora, all'ombra tua in estati lontane graffiavo l'erba, parlavo, sognavo. E tu dall'aria spinto sulle foglie lanceolate interloquivi, tra il timido sbucare dei fiori di pallido giallo e il pendolare delle cornette verdi. Riportami memoria di radicare nella terra bruna, finché d'autunno si porta sorridente dono come fai tu, che secchi il sole nei grani. Perché dovete sapere che in mezzo ai Gran Turchi una volta non c'erano concimi alchimici, non c'era chimica. C'era il concime naturale. E col concime naturale cresceva l'erba, quindi bisognava togliere l'erba e i contadini avevano anche piacere che si andasse a prendere l'erba perché si puliva esatto, era un doppio vantaggio. Non solo, ma in mezzo ai Gran Turchi piantavano le tegoline, le cornette verdi, sì, e piantavano piante di zucca. Quindi in mezzo ai sorgo turchi c'erano zucchine e anche cornette verdi. E anche cornetti li e se si andava ad aiutare dai contadini ti davano un pasto di cornette, diceva mia mamma, un pasto di cornette o un po' di zucche. Comunque sono e per buonissimi. Certi era la sopravvivenza naturalmente. Sì. Sono buonissimi i cornetti perché sono teneri, sono senza il fagiolo dentro. Esatto. Io avrei finito con le quattro stagioni. Con le quattro stagioni. Allora noi adesso andiamo a un'altra canzone. Fate un'altra canzone e poi continuo con il mio paese. Certo. Allora, con un altro libro. Adesso noi ascoltiamo, cantata da Los Marcellos Feriales. Si dice così? Los Marcellos Feriales. Sì, sì, bravo. Quando calienta il sol. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. locura, mi delirio, me estremezco. Eccoci di nuovo in studio e sempre col nostro dottor Italo Facchinello, che adesso ci parlerà di... Leggo delle poesie sempre dedicate al mio paese. Benissimo. Questa è di una raccolta successiva del 99, infatti è più recente, l'altra era dell'80. Sì, sì, è più recente, vediamo. Questa poesia si intitola, un po' più lunghetta delle altre, Sono stato in paradiso. Ah... Ci sono due parole dialettali che è meglio chiarire. Le sbirne sono le spinarioe, sono dei pesetti con le spine. Non so come si chiamano in italiano. Non saprei, no. Credo spinarioe in dialetto spinarioe. Più diffuso del Veneto. Sbirne dalle nostre parti. Già panchi. Sbirne addirittura. Una cosa, i pavei invece sentito. Sono le libellule. I pavei penso. Pavei, sono sì, le pavei, sì. Allora, sono queste solo. Allora, scusate, cosa sono i pavei? Le libellule. Ah, le... sì, sì. E rasentare significa risciacquare. Beh, questo lo so, questo sì, lo sì, sì. Allora, sono stato in paradiso giocando a stormo con gli amici attorno alla chiesa, vociando come i rondoni, e prima dell'alba cantando nelle volute del Dum Veneris, tra le navate silenziose. Sono stato in paradiso ascoltando uomini scuri raccontare sotto le stelle. Paradiso era anche un fossetto con le sbirne e i pavei e mia mamma a due passi alla fontana che rasentava. Sono stato in paradiso nella maestà dei campi col cielo attaccato alle ultime siepi. Il tempo non c'era. Quando si è giovani, ecco, uno dei segni, secondo me, della gioventù è proprio la mancanza del senso della morte, della fine. Sì. La gioventù non conosce fine. Non conosce, non lo concepisce. Non lo concepisce. È sempre un salire, l'avvenire è infinito. Esatto. Questa è al mio paese, anche qua ci sono delle parole, c'è una parola dialettale, le sgarbe sono i mozziconi di gambi di frumento quando crestano dopo tagliato il frumento, certo. Le sgarbe. Al mio paese si camminava a piedi scalzi sulle sgarbe, ma alle porte della chiesa si stava insieme a tutti e dentro con l'Altissimo. Al mio paese il pane si teneva per dolci alla fine dei pasti, di polenta e qualcosa. Ma ognuno aveva il suo cielo sopra i campi e le siepi intorno a casa, per il sole e i temporali, la luna e le stelle, contate e ricontate, vaganti come i pensieri. Bella. Al mio paese silente, rari parlari, vicino ai muri, caldi di sera in estate, richiami d'uomini e di madri e suono di campane, il mondo finiva al colmello, ma ognuno aveva il suo posto a un passo dall'infinito. Chi è stato in questa terra dove parlano ancora le voci dei padri non può che tornare camminando o col pensiero. È molto bella, bella immagine proprio, belle immagini. Qui invece c'è un ricordo della gente che è morta all'estero camminando, lavorando perché bisognava emigrare e andare via perché dalle nostre parti non c'erano sbocchi economici. Assolutamente, c'è stato tanti, per esempio, della mia età. Un esodo. Io mi ricordo biblico. Che quando avevo 20 anni eravamo in 40, di questi 40 saranno rimasti nel paese 3-4, gli altri sono andati tutti in Canada, in Australia, in Brasile, obbligati, e tanti sono anche morti purtroppo nel lavoro. Allora sì. Io ho dedicato una poesiola a questi che sono scomparsi lavorando, per tanti scomparsi in paesi lontani, per tanti immolati nel gelo di notti, nel fango di guerre, stroncati da un colpo la voce che lenta calava implorante, volti nei campi in povere case, per uno schianciato su un fosso in lande sperdute da un ferro bulldozer, e per tutti, per il sangue di nostre famiglie sepolto in terra straniera, in tempo di quiete e di fame sconfitta, il pensiero che i mari scavalca, legame si faccia preghiera. E questo anche è un ricordo della gente che è morta in guerra. Perché una volta purtroppo sono morti tanti in guerra, penso. In guerra le facevano i poricani. Un massacro, purtroppo. Un massacro è stato. Una follia. Con i tanti gloriosi di tutte le guerre, un piccolo altare si faccia ai poveri onesti, a quelli che andavano a legno senza slegare una rapega, a spigolare senza tirare una spiga dalle faglie, a quelli che mangiavano polenta e nespoli e si cavavano il boccone di bocca per i figli. A quelli che partivano di mattina a buon'ora col sacchetto in spalla, a quelli che cercarono un pezzo di pane di là degli oceani, a quelli che comprarono un campo lasciando i polmoni in miniera, a tutti quelli che tirarono la vita coi denti senza rubare, serbando nei volti innocenza e mansuetudine. A questi eroi del nostro tempo si eriga a memoria un piccolo altare, e che queste parole diventino pietre. E qui ci sarebbe da dire sulla dimenticanza colpevole da parte di chi diciamo poteva e non ha fatto, nei confronti dei nostri fratelli che sono più veneti, più trevisani di quanto non lo siamo noi. Ed era tanta gente per bene, purtroppo galantuomini, che si sono fatti dalle nostre parti. Chi è diventato ricco ha comprato terra in quel tempo lì, parliamo degli anni 40 e 50. Comprato terra, ma come l'ha comprata? Andando all'estero, andando in miniera, quindi venendo a casa magari con la silicosi, sì, venendo a casa malati, diciamo, a quel prezzo hanno comprato 2-3 campi di terra con i quali poi hanno campato la famiglia. Sono riusciti a sopravvivere, poi hanno innescato, che ce lo dimentichiamo troppo spesso, hanno innescato quel miracolo economico, perché avevano uno spirito di sacrificio straordinario. Ma anche quelli che senza limiti, anche quelli in Belgio, in miniera, era un lavoro duro. E questo dovrebbe essere sottolineato e ricordato alle nostre smemorate generazioni, ho l'impressione. Ma penso che loro non ci pensino nemmeno, queste generazioni, anche perché non hanno vissuto. Certo, non parlo però delle generazioni intese nel senso dei discenti, ma di quelli che avrebbero potuto fare certo che insomma i nostri antenati hanno fatto dei sacrifici che adesso non ci si sognerebbe nemmeno lontanamente. Sono sacrifici di straordinari fare. Che però hanno avuto, sono stati frutti poi nemmeno riconosciuti da quelli che sono venuti dopo. Da lì purtroppo Nasce il miracolo economico del nord-est, da quello spirito di sacrificio. Certamente. Che adesso in parte sta andando. Ecco, io vorrei ricordare per questo un grande, diciamo, che è stato Giorgio Lago, il quale ha intuito un grande personaggio. Era dalle nostre parti, poi era da Godio, esattamente, ma un personaggio straordinario che io ho conosciuto personalmente, una persona che aveva intuito più, molto più degli altri, molto prima degli altri, che cosa sarebbe stato. Era un insegnante? Era un grande giornalista, ex direttore del Gazzettino. Sì. Un grande giornalista. Anche lui non c'è più. Purtroppo è scomparso qualche anno fa e ha lasciato un grande vuoto, effettivamente. È stato commemorato, ricordato. Sì, c'è sempre una fondazione che ogni anno ricorda le sue gesta. Sono persone che guai dimenticare. Assolutamente. Se volete continuo l'omaggio del mio paese. Certamente. Sì, andiamo avanti. Vorrei rivedere ogni giorno quest'alta pianura recinta di monti e lambita da fiumi quietati. I colli asolani vorrei rivedere ogni giorno e restare per sempre in quest'Eden del mondo. Un'altra. Sì. Amo le case rustiche, quei larghi porti. Anch'io le amo, case rustiche. Quei larghi portici e i balconi spia, la terra agricola, gli arati, i bruni seminati, i verdi coltivi di siepi contornati. E l'acqua quieta tra l'erbe e l'ombre dal mormore amico ai meriggi. Amo l'odore del fieno, i gridi dei rondoni nelle sere calde e restare insieme in sintonia a raccontarci e sentire un misterioso rinforzo di vita che stravina e s'allunga senza tempo. E a proposito di case rustiche, quante ne sono state abbattute nel vano? Un disastro, non mi dica. Io ho fatto una relazione, avevamo un'associazione con Enzo De Mattè, la Stanza Veneta di Cultura e Critica. Sì. E una volta mi hanno dato un tema da trattare, le case dei nostri paesi. Bene, io non ho trovato in tutto un giro che ho fatto per Montebelluna, eccetera, tante case di una volta le hanno buttate giù nel vano tentativo. E ho trovato dei mostri, che ho documentato con le diapositive, che sono un obbrobrio, proprio il kitsch al posto delle case vecchie. Esatto. Io dicevo sempre, se le case vecchie mettevano l'acqua calda alle poltrone, erano l'ideale. Assolutamente. E in un paese, credo che nei nostri paesi se ne sono salvate poche da contare su una mano. Esatto, perché per eliminare quello che pensavano fosse la miseria, una cultura. Perché avevano patito il freddo, avevano patito la scomodità, la fame. In quelle case pensavano che era colpa delle case. Invece le case erano a misura d'uomo perfettamente. Era una perfetta misura d'uomo. Qualcuno intelligente, ma rari, le hanno salvate. Io ricordo delle case di campagna stupende. Che, ecco, come diceva lei, che magari con due. Io ho fatto un libro una volta che sono stato in America. Ho trovato con paesani lì, abbiamo detto, vi ricordate com'era l'Oria un tempo? Sì, ci ricordiamo, ci siamo messi insieme, invece non ci ricordavamo per niente. Allora io vado a casa e vi faccio la fotografia di l'Oria com'era negli anni 40 e ho fatto un libro. A corredo di questo libro, in appendice, volevo mettere delle fotografie di case di una volta. No. Ne ho trovate sì e no, una per via, sì e no. Mamma mia. Ho stentato a trovare case vecchie. Un disastro. Una decina di case vecchie di una volta. Un disastro. Tutte buttate al peccato. Tutte rose al sole, un disastro. Bene, allora ci ascoltiamo la quarta canzone in programma, che è cantata da Edoardo Bennato e da Gianna Nannini, Un'estate italiana. Canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Siamo noi. Ed eccoci di nuovo in studio con il dottor Italo Facchinello per un altro excursus nella memoria, sì, delle nostre campagne. Omaggio al poesia, al mio paese sempre. Bene. Questa qui si intitola La terra del mio paese. La terra del mio paese conosce il passo affaticato e sente da lontano il profumo del pane. La terra del mio paese mille volte ho toccato palmo a palmo, a lungo ho parlato con l'erbe nei cili dei fossi, con spagne e soturchi, con loro ho sognato in cammino dentro il respiro dell'alba, dai campi del Corno e dei Runchi, che sono due località del paese, come dal grembo della vita, guardo il mondo stupito e ancora aspetto si avveri l'antica speranza. Sempre bello. Adesso continuo, sì, sempre sullo stesso tema. Vorrei solcare i mari in barca silenziosa e scalare i monti in solitaria a sentire l'aria delle altezze. Vorrei scendere i fiumi, esplorare i boschi e le città e ovunque fermarmi finché di tutto mi si impasti l'anima. Poi porterei questo intero tesoro a casa mia, dentro di me. Bella. Poi, angoli e scorci e palmi senza fine di questa terra muovono dentro lietitudini molte, ma solo il mio paese e i profili intorno, quei siti e sembianti, si compongono dentro di me in un quieto sentimento d'armonia. Quanti campi aveva il mio paese e siepi che mi perdevo per cavini, quanti campi e paesi alla terra e monti e mari, e com'è piccola la terra nell'universo. Beh, è vero, è vero. Nel mio campo, dai fiori bianchi dei ciliegi, dei fiori lilla dell'autunno, generoso nel sole e paziente negli inverni, qui è incontrata, intatta nel ricordo, sfumano le angosce degli anni e il tempo, come le stagioni, sembra tornare anche per me senza fine. Si sente che proprio lei la sente la sua terra. E qui c'è l'imprinting, diciamo, sì, che si è così calato nell'animo. Sì. I primi anni sono determinanti e certo, l'ambiente naturalmente certo, fa parte proprio appunto, della... Proprio, senti che lo sente proprio... Assolutamente. Qui c'è una poesia piena di parole dialettali che esigono una spiegazione. Allora. Noi le semi delle zucche le chiamiamo mare. Mare? Mare de succa. Le mare de succa. Mare de succa, sì. Esatto. Poi moesina vuol dire morbida. Moesina, sì, vero. Catalpe sono i platani. Cosa si catalpe. Chiama? Catalpe. Catalpe. I platani. Sì, io non lo sapevo. Esatto. Sì, sì. I cimbloni sono un uccello che in italiano si chiama rigogolo. No, questo cioè lo sparito non... dalla circolazione, non c'è più. Aveva un verso dolce o aveva un verso? Un verso flautato, come un merlo, ma modulato, molto più modulato. Molto più merlo, bello. Che cantava, si sentiva cantare nei pomeriggi d'estate, caldo, nel silenzio. Faceva un verso, noi diciamo gli mettevamo anche le parole, dicevamo che era giro giro toni. Aveva una modulazione particolare. Ma come mai è sparito? Perché è strano. Ma forse dei concimi chimici, era un uccello piuttosto raro. Aveva un petto giallo e sopra verde. Era un uccello, sì, forse fragile. Grande come un merlo circa. Ah, sì, sì, sì. Ma guarda, come si chiamava? Stato. Il cimblone in dialetto. Cimblone. Rigogolo in italiano. Rigogolo. Il batarin era lo scondicuco. Ah, batarin. Perché si batteva sul muro o su un albero, uno, due, tre, finché sì, gli altri andavano a nascondersi. Sì. Schievenin era l'acquedotto che mandava l'acqua, sì, da noi. Certo. Il batarone era quello che suonavano durante la processione del Venerdì Santo. E raccoete. No. Suonavano, quello. C'era un pezzo di legno grande con due battenti di ferro. Ah, ecco questo. E quello, sì, lì, siccome non si poteva suonare le campane, esatto, negli intervalli tra un canto e l'altro, durante la processione, tutto. Battevano questo pezzo di ferro, bum bum bum. Esatto. Bum. Mentre le raccoete erano quelle che si giravano. Le raccoete erano quelle che si giravano durante la predica. Esatto, sì, esatto. Sì. Poi il campanon era quel gioco che facevano le bambine con i segni per terra. Sì. La sposa in gioiada era il guardia e ladri, in pratica. si chiamava spussinciuolo dalle nostre parti. Spussinciuolo, cioè si metteva la, si, toccando si appiccava la puzza a quello che veniva, certo, veniva toccato. Era guardia e ladri in pratica. In sostanza cos'era? Un gioco? Un gioco che si faceva correndo attorno alla chiesa. Ah, ho capito. E poi si faceva un gioco con i soldi che si chiamava tre teste, tre barrette, la media e il paton, che questo ve lo spiego un'altra volta. Ah, ho capito. Dunque Burlesque è il titolo di questa poesiola. Vorrei conservare perfino le mare di zucca marina, porterei in cantina perfino la polvere moesina della strada e quella intossicante delle catalpe, il grido festante dei rondoni attorno alla chiesa, il verso dei cingloni, e porterei al sicuro nel mondo futuro, purché non appaia mania di vecchiaia, gli agguati di sera del Batarin, le passue di acqua schevenin, il bataron del Venerdì Santo, i salti del campanon, le corse in contrada dispose in ciuada, tre scarti di tre sete, tre teste e tre barrette, la meda e il paton. E qui è un po'. Sì, beh, effettivamente. È un po' scherzosa, burlesca. Si dice Schevenin o Schevenin? Schevenin. Schevenin. Ah, Schevenin. Con CH, sì. È vicino a voi Schevenin? No, è un po' lontano, ma insomma, non moltissimo. Non moltissimo. No, sa perché? In mezzo alle montagne. Mio cognato andava sempre a Schevenin con i suoi amici, erano innamorati di. C'è un po' di montagna lì, no? Sì, sì, esatto. È leggermente alto, sì. Resterei qui. Salendo lento la vita ho accumulato sul cuore montagne di attese che ho visto disfarsi, candore di neve e raggi del sole. Ora che autunno la luce dei giorni raccorcia, svia la tristezza che nasce al confine col varco del tempo il ricordo dell'aria di casa, densa d'antichi sentori e tepori siccome tabarri d'inverno. Resterei qui a ricordare e a guardare il paese senza fine. Adesso io avrei finito col paese, se volete vi leggo qualcosa per mia mamma. Benissimo, adesso una per la mamma. Volevo ricordare che il dottor Italo Facchinello è stato per 38 anni direttore dell'ISRA. Quindi, sono entrato nel... Lunga militanza. Sono entrato nel 50, alla fine del 54, all'inizio del 55 e sono andato via nel 92. Quindi fate il conto. Insomma, abbastanza, no? Lunga. Ma dov'era la sede qua a Treviso? La sede dentro a Porta San Tommaso, che è ancora lì, la sede amministrativa. Quindi lei ha conosciuto il commendator Marta. Madonna, lo conoscevo anche prima che fosse presidente dell'istituto. Come so che appunto, ma io lo conoscevo per antiche appartenenze, diciamo. Io lo conoscevo abbastanza. Vabbè, facciamo una canzone prima? No, sentiamo magari prima la poesia, okay. E poi facciamo l'ultima tranche. Cosa facciamo allora? La poesia? La prima la poesia? Della mamma. Della mamma. Ma quella della mamma, va bene. Direi una poesia per la mamma, direi che sicuramente. E poi. Oh, e poi completiamo con la canzone e siamo già in dirittura d'arrivo ancora una volta. E allora così faremo una canzone allegra. Esattamente. Sperando che vinca anche l'Italia, così. In modo da concludere in allegria. E vediamo che cosa. Ecco, che ormai siamo in casa. Mia mamma non somiglia alla Madonna Celestina del mio paese, pallida e ferma nella nicchia d'altare. Mia mamma è la terra di tutte le messi, il trionfo dei fiori di ogni stagione, il sole che brilla e ancora di più. Mia mamma somiglia alla Madonna vera ed è con lei nell'eterno. Difatti nella presentazione c'è che è scritto che per lei la mamma è la Madonna. La Madonna per lei era la mamma. Leggo un'altra di mia mamma, se volete. Sì, prego, prego. Ti bastava, mamma, per darti coraggio una cioppa di pane sudato sui campi o cucendo in notturne veglie con lume a petrolio. Se no una fascina di legno di spighe, la promessa di uova di cinque galline, una sporta di rosoline. E nelle stasi d'estivi meriggi vicino alla vite di uva bacò, o nelle sere invernali aggiustavi i brandelli di noi, in un quieto parlare dei giorni a venire e del Dio provvidente che aiuta a sperare. Ecco, questo sintetizza, diciamo, tutto uno spirito dell'epoca, diciamo che è una. credo che racchiuda proprio tutti. Mia mamma non ha mai conosciuto l'abbattimento, nonostante l'indigenza estrema in cui si viveva, questo ci ha sempre dato coraggio. Questo era un tratto. E quella speranza mi è restata, mi è rimasta come tratto, come anche sì. Io non riesco a fare qualcosa che non sia a lieto fine, non riesco a immaginare qualcosa che non finisca bene. Questo è l'auspicio che abbiamo anche noi. È un'auspicio che ho avuto da mia mamma. Ecco, questo è l'auspicio che abbiamo anche per le nostre future generazioni. Bisogna resistere. Resistere e anche aver sperare esattamente nel meglio che deve ancora venire. Nel meglio. Allora adesso ti ascoltiamo l'ultima canzone, andiamo tutti al mare, ecco, con Giuni Russo, poveretta che è mancata prematuramente, ascoltiamo Un'estate al mare. Shabala, shabala, shabala, papà. Shabala, shabala, shabala, papà. Shabala, shabala, shabala, papà. Shabala, shabala, shabala, papà. Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazione. Voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagni al largo per vedere da lontano gli ombrelloni. Ed eccoci di nuovo in studio per il finale con il dottor Facchinello che ci leggerà, mi pare, un'ultima poesia per la mamma. Se avessi parole, il titolo. Se avessi parole di pintura racconterei la tua figura, il capo un po' reclinato. Se avessi parole vittoriose racconterei il tuo passo per cavini e strade di sasso col gelo e la calura. Se avessi parole d'avorio e rubino come la contentezza in primavera o nell'oro dell'estate glorioso, racconterei il tuo sorriso. Se avessi parole di balsamo e canto, racconterei la tua voce. Se avessi parole di luce che scende nel cuore, racconterei il calore del tuo sguardo. Se avessi parole scure come la tristezza, racconterei l'ombra del dolore che attraversava il tuo volto al pensiero della fine. Se avessi parole che inverano fiabe, racconterei che sconfiggi la morte e ritorni una sera nella nostra casa, in via della Crosera. Invece ho soltanto parole avare che non sanno raccontare di te e del mio ricordo. Oh, ecco, molto bella, molto questa significativa, bella questa, che è quello che bella. Si vorrebbe dire, che è quello che un figlio vorrebbe dire in genere, e non riesce mai a dire, certo, per pudore, no, cose di questo tipo. E poi naturalmente quando è già trascorso il tempo uno si ricorda, evidentemente. Sì. Beh, molto bella, molto, molto decisamente significativa, sì, e commovente. Sì, ma anche commovente, sì. E niente, allora siamo arrivati, naturalmente, no, non come sempre, domanda, non... sì, sì, sì, siamo arrivati, come dire, al finale, ma si parlava di miseria, si parlava della grande miseria del tempo del paese sì, di provenienza, Loria. Io ricordo che c'è un caso di successo nel comune di Loria, sì, che è Bessica, che è partita, sì, da dove? Bessica è partita dagli stracci. Oh. Una volta erano stracci. Erano stracciaroli. Ah. E anche un po' zingari, perché noi con Bessica, Loria e Bessica, abbiamo sempre avuto una certa rivalità. Certamente. Si diceva che quando le caravane degli zingari andavano lì, non venivano più via perché si trovavano d'accordo con i bessegati. Il saldo scherzoso. Non solo, adesso questa rivalità naturalmente è superata. Esatto. Comunque quelli di Bessica hanno avuto per primi, probabilmente adesso anche a Loria, anche in tutte le frazioni, là, Ramon, Castion, ma i primi a partire con iniziative moderne, nuove, sono stati proprio i bessegati. Dagli stracci sono passati alle piante, uh-huh, e sono diventati dei vivaisti di livello internazionale. Loro mandano piante, fiori, un po' in tutto il mondo. Esatto. C'è una fiera annuale che fanno a Bessica che ha una portata oltre regionale. Certo. Diciamo che hanno avviato un fiorente commercio. E adesso sono abbastanza tutti ricchi, ricchi. C'è una buona ricchezza diffusa, diciamo. Quindi hanno cambiato il mondo. Mi interessava far capire che, essendo partiti da un'economia di sussistenza. No. Ma anche il paese di Loria intero, il comune di Loria e tutto, che una volta era il più povero della provincia, adesso non lo è più. Esattamente. Questo dovrebbe essere un segnale, un qualcosa da dare. E resiste ancora questa voglia di fare da noi. Questa voglia di fare, che è il ricordo delle fatiche antiche dei contadini. Esattamente, ed è quella che noi vorremmo sottolineare e trasmettere ai nostri ascoltatori, certo, e alle future generazioni, perché mai lasciar perdere, mai arrendersi, mai mollare. Finché si può, bisogna andare avanti. E anche dopo. Bisogna che noi impariamo dalle generazioni precedenti. C'è ancora gente che crede, che ha voglia di fare, che ci induce a un certo ottimismo. Esattamente. Diciamo. Ed è a questa gente che noi dobbiamo far riferimento come modello. Se fosse tempo, ci sarebbe anche qualche altra cosa. Purtroppo da dire. Non lo possiamo fare, però allora, questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare. Appunto. Ma sarà per le prossime volte. Sì. A Dio piacendo. A Dio piacendo, esatto. Intanto noi salutiamo i nostri ascoltatori, li ringraziamo per la pazienza che hanno avuto ad ascoltarci da ottobre a luglio, insomma. Io vi ringrazio dell'invito, spero che le poesiole vi siano dispiaciute, no, molto molto belle, decisamente. No, comunque, dottor Falchiniello, noi siamo contenti di averla avuta qui come ospite, di aver concluso in bellezza questa nostra serie, diciamo, appunto, ecco. Ed è chissà, grazie ancora. Lei ci e buone garantisce vacanze che... a tutti, sì, vale, magari operose. Grazie. Cioè, comunque ci garantisce che eventualmente ritorna, vero? Vengo eventualmente, le poesie sono quasi esaurite perché non scrivo più poesie. Ma ci sarà, so che lei scrivo in prosa tanto, ho scritto anche fiabe, bellissimo, argomenti ce ne saranno. Antonio, io ti ringrazio della lunga collaborazione. Io ringrazio te e naturalmente ringrazio soprattutto i nostri ascoltatori e la nostra ascoltatrice. Salutiamo tutti, auguriamo a tutti ancora buone vacanze e auguriamo a tutti una serena e buonanotte. Grazie. Ciao a tutti. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.